conferenza sul clima di Cancun, è la prima grossa conferenza dove si incontrano tutte le parti, gli altri delegati, tutti i membri della Convenzione Quadro dei Cambiamenti Climatici, la UNFCCC, dopo il meeting di Copenaghen dell'anno scorso in dicembre. Generalmente in questi meeting adesso ci sono vari incontri. Abbiamo i due organi sussidiari della Convenzione Quadro, la SAFS e la SBI, che trattano argomenti tecnico-scientifici relativi ai cambiamenti climatici e tutti gli elementi, tutte le tematiche dell'implementazione e dell'attivazione di varie attività. Poi abbiamo la COP, in questo caso sarebbe la COP 16, Conferenza delle Parti numero 16, che invece tratta tutte le tematiche più politiche, più attuative, con anche le decisioni che possono essere prese e votate a consenso dai vari rappresentanti dei Paesi membri della UNFCCC. Poi abbiamo i due tavoli di lavoro, che sono quelli più importanti per un accordo globale, uno sul post-Kyoto, cosa si potrà fare dopo che è finito il primo periodo di impegno di riduzione delle emissioni del protocollo di Kyoto, quindi al 2012, e invece l'altro tavolo di negoziazione che è su un accordo globale che possa includere anche i paesi in via di sviluppo e i paesi dell'economia emergente. Le grosse trattative, le grosse negoziazioni sono su questi due tavoli negoziali, che sono quelli che si sono bloccati a Copenaghen e che hanno portato alla fine a questa dichiarazione politica creata da pochi paesi alla fine della COP 15 di Copenaghen, che poi è stata sostenuta da più di centinaia di paesi entro gennaio di quest'anno. Quindi, mi scusi, prima di arrivare agli obiettivi, quindi a Copenaghen diciamo non si è arrivati ad un accordo complessivo, ma parziale. Accordo vincolante legalmente. Allora sì, a Copenaghen non si è arrivati a un accordo vincolante legalmente e non è stata adottata nessuna decisione riguardante un accordo globale dopo il 2012 che potesse coinvolgere tutti i paesi. Questo è il punto caldo di tutta la vicenda, che possa coinvolgere non soltanto i paesi industrializzati ma anche i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi dell'economia emergente, che sono quelli che adesso hanno cominciato ad avere un ruolo preponderante nelle emissioni di gas serra negli ultimi anni. Questo non si è raggiunto, c'è stata una dichiarazione di impegno politico, il famoso accordo di Copenaghen, che però non è stato adottato formalmente dalla COP 15. Bene, la COP 16 riparte da vari elementi dell'accordo di Copenaghen e diciamo che i tavoli negoziali più importanti che si sviluppano su questi due tavoli che gli ho detto, il post-Kyoto e il tavolo dell'accordo globale, sono ad esempio la discussione su questo accordo globale che include anche i paesi in via di sviluppo, quindi con delle riduzioni delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici che possa coinvolgere anche i paesi ad economia emergente e in via di sviluppo. E poi abbiamo un altro tavolo di discussione sul trasferimento di tecnologie, sul capacity building, sulla mitigazione e sull'adattamento e sul finanziamento. Bene, attualmente si spera che si possano fare dei progressi notevoli, in particolare sul tavolo del finanziamento, che era stato definito nella COP 15 di Copenaghen un'emergenza, quindi cercare di finanziare i paesi in via di sviluppo, finanziarli nelle loro azioni di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, quello che si chiama Fast Start Finance. Questo è un tavolo molto importante, si potrebbe arrivare ad adottare, si spera, qualche decisione. Poi abbiamo il tavolo sul trasferimento delle tecnologie, anche questo sta progredendo abbastanza bene, e poi c'è anche con grande interesse, si può anche sperare che il tavolo che discute sulla riduzione della deforestazione, del degrado delle foreste, possa anche portare a qualche decisione. Riguardo l'accordo globale, il discorso è molto più complesso ed è difficile adesso poter prevedere una conclusione. Parlando di finanziamenti, si sta pensando ad un fondo globale su questi temi? Sì, si sta pensando a un fondo globale, chiaramente finanziato dai paesi industrializzati, che possa sostenere le azioni di adattamento degli impatti dei cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi che possono subire più fortemente gli impatti dei cambiamenti climatici, che sono le piccole isole, ad esempio, e i paesi dell'Africa, che hanno anche meno capacità tecniche, tecnologiche per poter reagire e per poter adattarsi ai cambiamenti climatici. Fino ad ora in Italia c'è stata poca attenzione da parte dei mezzi di comunicazione. Dal punto di vista politico, che tipo di attenzione c'è sul vertice? Abbiamo letto delle dichiarazioni un po' perplesse di Lula, perché dice non ci si aspetta che arrivino i capi di Stato. Questo può contare o no? Questo non lo so dire, sinceramente non glielo so dire. Io posso soltanto dirle che l'Italia è membro dell'Unione Europea, l'Unione Europea l'Unione 27, nelle negoziazioni della UNFCCC, della Convenzione Quadro dell'ONU dei cambiamenti climatici, parla con una voce sola. Quindi abbiamo un coordinamento europeo, si sviluppa una posizione e viene poi presentata nelle discussioni, nelle negoziazioni con gli altri paesi. L'Europa ha sempre avuto un ruolo molto attivo negli ultimi anni nella negoziazione per un accordo globale. Non so dire sinceramente se, dovuta anche alla situazione economica e tutto, non ho assolutamente idea di come gli altri paesi del G8 o i paesi dell'economia emergente possono reagire e possono, non so, poter avere veramente una spinta, avere veramente una motivazione molto forte per poter arrivare a un accordo globale. Diciamo che è sicuramente molto difficile che entro il 10 di dicembre di quest'anno si possa raggiungere e adottare una decisione per un accordo globale vincolante legalmente, con delle riduzioni di emissioni e delle azioni di mitigazione anche per i paesi in via di sviluppo.